Italia in controluce. Si apre dunque una nuova settimana di Italia in controluce, il programma di Radio 24 condotto e coordinato da Daniele Biacchesi, quotidiano che indaga sulla cronaca, sulla politica, sul costume, sullo spettacolo italiano. Queste sono le storie di piccoli comuni messi in seria difficoltà dalle strette imposte nella manovra economica. Si tratta di forti, fortissimi tagli che minano la stessa esistenza di questi comuni. Qual è la ricaduta per i cittadini? Il reportage di Cristina Carpinelli. La sagra dei fichi, la neve da spalare, la scuola che ha un problema da risolvere. Fino ad oggi, nei piccoli comuni con meno di 1000 abitanti, ci hanno pensato praticamente sindaci e assessori, che di fatto lavoravano quasi a costo zero e riuscivano a mettere a posto tutto, un po' come farebbe un buon padre di famiglia in casa. Lei si immagini una proloco per costi, ma una risorsa incredibile per gli abitanti, mi dice così il sindaco di Monteleone di Spoleto, Nando Durastanti. Io penso, gli ha fatto male il sole d'agosto, questi. È cervellotica la cosa, come si può pensare, cioè, di gestire questi territori così vasti, di superficie, con enormi difficoltà, eliminando il comune. Non lo capiamo, per cui non lo so. Ci sono dei comuni che sono destinati a scomparire e il suo è uno di questi, giusto? Sì, il mio è uno di questi, che poi sta isolato rispetto agli altri, sta a un comune vicino, so, 20 chilometri, di strade di montagne. Non... Ma quanto costa un comune? 16.000 euro. 16.000 euro comprensivi di tutto? Di tutto, costa nemmeno 16.000 euro, 14.000. Ma 14.000 un mese? No, l'anno. Quindi diciamo è una spesa irrisoria. Ma capisce dove stanno intervenendo? Cioè, le faccio un esempio chiaro. Allora, un consigliere provinciale, finito il mandato di 5 anni, ha un appannaggio di 2.500 euro al mese. Non so con quale coraggio, cioè con quale pensiero, cioè ci vuole una mente contorta per dire che togliendo i piccoli comuni si fanno risparmi sulla politica. Avrà dei danni irreversibili sul territorio, ma prima di tutto perché i territori sono bassi. L'amministrazione che opera sul territorio molte volte e quasi sempre opera gratuitamente. Cioè c'è un controllo delle frazioni, c'è un controllo dell'area, c'è un controllo di tutto, c'è un intervento costante per piccole cose, senza finanziamenti, senza spese per il comune. Cioè qui fanno pure volontariato, qui fanno di tutto, gli assessori, i consiglieri, il sindaco, fanno di tutto. Immagini una grossa proloco che organizza gli eventi solo nel periodo, no, estivo, solo nel periodo. Qui l'amministrazione organizza la tutela del territorio tutto l'anno. Il territorio italiano è fatto di tante piccole realtà dove l'accoglienza e il turismo funzionano perché chi gestisce il territorio è spesso parte in causa di questo processo. Ancora Nando Durastanti. Cioè, prima, invece di fare una legge ad hoc per la montagna e per i piccoli comuni, invece di fare una legge ad hoc, perché loro non capiscono che portando più persone nei centri grandi, nelle grosse città, fanno sempre più danni. Un anello forte dunque quello dei sindaci di paese che non va cancellato. Ci racconta così Mauro Guerra, che coordina i piccoli comuni e che annuncia battaglia fino all'ultimo. Ma il danno grosso è che sembra che questi signori non sappiano che i piccoli comuni già gestiscono in forma associata, nelle varie forme, delle unioni di comuni, delle comunità montane dove ci sono e delle convenzioni, una pluralità di funzioni e di servizi. Il rischio è che con questo intervento, che inventa delle cose nuove e poco razionali, si distrugga quello che già c'è e invece di riordinarlo, riorganizzarlo, eliminando duplicazioni, sovrapposizioni che pure ci sono, cioè che si faccia un intervento che farà per un anno andare nel caos la gestione di servizi essenziali, dai servizi sociali al trasporto pubblico locale, all'istruzione, tutta una serie di servizi fondamentali ed essenziali che con questo intervento a gamba tesa, diciamo così, insomma, rischiano davvero di non essere più erogati efficacemente ai cittadini. Noi insistiamo nel chiedere lo stralcio perché vogliamo andare verso un riordino di tutto questo sistema, vogliamo le gestioni associate nei piccoli comuni delle funzioni, vogliamo le unioni di comuni, ma vogliamo che questo si faccia in modo serio, capendo le diversità, comprendendo le diversità dei territori e in modo utile per i cittadini. L'altra cosa assolutamente intollerabile che è venuta fuori dalle novità della manovra è la sottoposizione al patto di stabilità anche dei comuni con meno di 5.000 abitanti. Con le rigidità dei bilanci dei piccoli comuni è impossibile gestire le regole del patto di stabilità. Si provocheranno disastri dal punto di vista dei servizi, ulteriore calo degli investimenti e quindi una condizione molto difficile. Nel momento in cui i comuni chiedono di rivedere le regole del patto di stabilità che stanno impedendo ai comuni maggiori di fare investimenti, di utilizzare gli avanzi di amministrazione, la risposta che ci viene data è quella di estendere le stesse stupide e ottuse regole anche ai comuni con meno di 5.000 abitanti. Tutto questo è inaccettabile. Se vai a fare i conti in tasca ai sindaci dei comuni che la manovra vorrebbe cancellare, si scopre che costano 5,47 euro l'anno a contribuente. È il caso, ad esempio, del sindaco di Alagna, in Valsesia, Roberto Veggi. Allora, premettiamo che i 340 in periodo non turistico si trasformano in 3.000, 4.000 durante il periodo turistico. E quindi è già una cosa su cui meditare, diciamo. Per quanto riguarda invece l'unione dei piccoli comuni, siamo veramente in questo momento io e tanti miei colleghi veramente spaesati, anche perché le notizie che ci arrivano sono disparate, cambiano. C'è poi un'altra storia che nel testo della manovra non compare quando si parla di piccoli comuni e per raccontarvela bisogna partire da qui. Nel periodo dell'esodo si vedevano i camini che non fumavano più, era il segno di una casa abbandonata, i comignoli che non fumavano. Adesso invece vede tutte le case rifatte, vede una nuova partecipazione della gente, quindi io dico che Cenerentola è diventata principessa. L'esodo, così lo chiamano i vecchi rimasti nei paesi, è il periodo in cui le case venivano chiuse, abbandonate per andare a cercare fortuna in città. E in Valsesia sta avvenendo quanto sta avvenendo in molte piccole realtà italiane. Potremmo forse dunque parlare di controesodo, di quei giovani che ora tornano sui monti ad occuparsi spesso di turismo. Ancora il sindaco di Alagna, Roberto Veggi. La ripresa della popolazione stanziale qui la avvertiamo ormai da qualche anno, anche se in modo molto molto lieve. Noi abbiamo una popolazione con trend positivo, che è una cosa abbastanza fuori di comune, che era anni che non si vedeva più aumentare la popolazione invece che diminuire, chiaramente l'immigrazione per andare a cercare lavoro altrove, adesso c'è. Ci sono grandi, grandi possibilità di lavoro qui da noi, quindi è un bene per tutti. Ma non c'è solo questo, bisogna mettere in conto anche il fatto che molte realtà locali, grazie alla presenza di giovani in giunta, sono arrivate prima a scoprire la green economy, creando reti di efficienza energetica e di turismo ecosostenibile. È il caso di Varese Ligure, il sindaco è una donna di 45 anni, Michela Marcone. Quando sul finire degli anni 90 Varese Ligure decise per non morire di puntare sul bio, nessuno al di fuori sarebbe stato capace di dire come sarebbe andata. Era un paese con meno di 1.000 anime. Oggi a Varese Ligure sono tornati giovani, famiglie e bambini. Insomma, la storia è andata bene. Si produce e si esporta bio e si produce energia per circa 8.000 persone, ovvero si vende energia in eccesso all'Enel che di fatto non fa pagare la bolletta a scuole, municipi e realtà pubbliche. Insomma, l'esempio calza a pennello, perché come Varese Ligure ci sono paesi nel Trentino che del virtuosismo energetico hanno fatto il loro fiore all'occhiello e proprio non ci stanno a mollare ora. Italia in controluce termina qui la seconda edizione. Siamo rintracciabili in diversi modi su Facebook, abbiamo sia la pagina che il gruppo, su Twitter siamo rintracciabili su radio24.it, via mail controluce radio24.it. torniamo domani alle 6.30 su Radio 24 con la pillola d'Italia in controluce dedicato alla Lega Nord.